Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Dunque, una giornata economico-finanziaria che oscillerà, diciamo così, tra la carne e le poste, nel senso che oggi debuttano, come ampiamente ricordato dai nostri GR e dagli altri programmi, debuttano le poste in borsa. Stanno in questo momento, visto che ci avviamo alla conclusione, partiamo proprio da lì. Il titolo delle poste italiane è collocato, lo ricordo, a metà della forchetta, come si dice in gergo, quindi tra a metà del prezzo minimo e massimo indicato. Sta cedendo in questo momento l'1,70%, adesso sarò ancora più preciso. Poste Italiane perde sostanzialmente e quindi si colloca a 6,66 rispetto a 6,75 di prezzo di quotazione, -1,33%. Molto forti volumi, soprattutto nella mattinata. Di questo parleremo chiaramente, così come parleremo, e non era una battuta, del tema che riguarda l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche qui questo non è un programma di medicina, se ne occupa Nicoletta Carbone, se ne occuperà Nicoletta Carbone assieme a Deborah Rosciani con Cuore Denari. Ecco, vorremmo evitare che un settore che vede, questo lo dico dal massimo rispetto di qualunque tipo di indicazione, intanto leggiamo i dati con attenzione e con le proporzioni dovute, lo dice un fumatore, ma insomma il rischio di tumore è aumentato del 18% per il colon retto per 50 grammi di carne lavorata o trattata mangiati ogni giorno. La media è in Italia di 25 grammi in media al giorno, ma l'aumento del 18% è sicuramente una cosa che va segnalata. Nessuno sta dicendo che sia salutare mangiare più di 50 grammi di carne trattata o lavorata al giorno, però faccio notare che nel caso del fumo le proporzioni sono ben diverse. Stiamo parlando di un aumento di 20 volte del tumore al polmone nel caso del fumo, non del 18% per ogni porzione da 50 grammi di carne in più. E comunque il settore italiano, visto che quando parliamo di carni insaccati, carni lavorate, parliamo appunto non di carne fresca ma di insaccati, e significano le grandi produzioni del Made in Italy, vale 32 miliardi di euro, è praticamente un sesto dell'intero settore agroalimentare, 2% del PIL italiano, 125.000 persone che ci lavorano. Noi esportiamo, come noto, soprattutto prosciutto, crudo, cotto, gli insaccati, i salumi. E da questo punto di vista l'anno scorso abbiamo esportato oltre 200.000 tonnellate di carne suina, meno nella carne bovina, e 170.000 tonnellate di pollame. Ne parleremo per capire anche i rischi che corre tutto il settore degli insaccati italiani. Anche in questo caso, se andiamo solo su questo fronte, notiamo un export che di 74.000 tonnellate per un valore di 615 milioni di euro, con dei numeri fortissimi per quello che riguarda i mercati di riferimento. Abbiamo esportato moltissimo in Francia, in Spagna, anche negli Stati Uniti, con un aumento sia della produzione che del valore, meno in Russia. Ne parleremo per capire il timore dei produttori e degli associati. Parleremo anche dello Svimez, il rapporto Svimez sul nostro Mezzogiorno. Da sempre lo Svimez è l'osservatorio privilegiato per l'andamento del Sud Italia. Oggi ha qualche elemento positivo, lo dico nel massimo rispetto per la situazione drammatica, ben più drammatica della media del paese in cui vive il nostro Sud, perché se il PIL torna a salire ma con un timidissimo 0,1% nel Sud, mentre al nord, centro-nord, farà più 1% quest'anno, però gli occupati, fa notare lo Svimez, che non è mai un osservatorio tenero, diciamo, con i dati, gli occupati nel secondo trimestre sono aumentati più che al nord, 120.000 unità al sud contro le 60.000 del centro-nord, più 2,1%. Certo che la situazione resta drammatica, il sud, nel nostro Mezzogiorno il 62% dei cittadini guadagna al massimo il 40% del reddito medio. Anche di questo parleremo, e poi la borsa in generale al di là delle poste italiane. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Qualche buona notizia arriva anche dal rapporto annuale dell'ACRI, che è l'associazione che raggruppa le fondazioni bancarie e le casse di risparmio italiane, dicevo dell'ACRI, sul risparmio degli italiani. Domani vi sarà la 91esima giornata mondiale del risparmio, interverranno come sempre il governatore della Banca d'Italia e il ministro dell'economia per quello che riguarda l'appuntamento a Roma, e il giorno prima come sempre viene diffuso il rapporto annuale curato anche da Ipsos sul risparmio. Devo dire che il 2015 è l'anno della svolta, così lo battezzano, torna la fiducia, la crisi resta grave, conferma il rapporto, ma per uno su 20 migliora il tenore di vita, torna anche il mattone per, per un italiano su 3 è l'investimento ideale, anche se gli altri 2 su 3 preferiscono la liquidità. E poi altri elementi interessanti, dicevo, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda la borsa, visto che accennavamo, il calo a Milano dell'1%, Parigi perde lo 0,90%, Francoforte meno 0,90%, Londra meno 0,70%, Dow Jones meno 0,30%, euro su dollaro a quota 1,10%, quindi in indebolimento. Per quello che riguarda i titoli, bene, Enel Green Power più 3,30%, Hughes più 1,70%, Moncler più 1,5%, A2A più 1,30%, UbiBank più 0,70%, come Campari. La Pop Milano e Intesa San Paolo, invece Luxottica meno 4, Saipem meno 3% come Buzzi Unici e MDST Microelectronics, CNH meno 3, Eni meno 2,60 come Tenaris, Telecom meno 2 come Enel, Exor meno 1,60 come Mediaset ed Azimut, cala dell'1,3% Tods e dell'1,1% Unicredit. Partiamo come sempre dalle notizie internazionali, mentre il petrolio continua a scendere nonostante la OPEC, insomma è a 42,9 dollari al barile, negli Stati Uniti un altro 2,3% di calo. Oggi dalla Russia si viene a sapere che al bilancio statale russo per il 2016 potrebbero mancare 900 miliardi di rubli, sono circa 14 miliardi di dollari, se l'attuale prezzo del petrolio, stimato in media a 44 dollari al barile, e il tasso di cambio col dollaro a 62 rubli resteranno gli stessi. Questo lo ha dichiarato il ministro delle finanze Siulianov, 14 miliardi di entrate in meno quindi per lo Stato russo. E tra l'altro il 2016 potrebbe essere l'ultimo anno per il fondo di riserva russo, il volume delle nostre riserve sarà ridotto di 2.600 miliardi di rubli, 41 miliardi di dollari in meno. Questo, spiega il ministro russo, significa che il 2016 sarà l'ultimo anno in cui saremo in grado di spendere le nostre riserve come l'anno precedente. E sempre sul fronte internazionale, però questa volta ci spostiamo negli Stati Uniti, c'è attesa per di nuovo la doppia sfida della Federal Reserve americana, cioè domani dovremmo capire se la politica economica resterà invariata a questo punto, probabilmente fino alla fine del 2015, oppure partirà l'aumento dei tassi di interesse, e quindi la Yellen, Janet Yellen, deve decidere se l'economia americana è pronta a un aumento dei tassi, diciamo dalla metà di dicembre, quando è in calendario l'ultima riunione dell'anno, oppure andare direttamente a gennaio. Nel frattempo, e qui ci spostiamo in Europa e cambiamo radicalmente tema, è arrivata una buona notizia per i consumatori europei. La fine del roaming, e cioè del fatto che tu quando vai all'estero paghi gli accordi tariffari che sono molto svantaggiosi per i clienti, quando ti trovi all'estero e ricevi una telefonata sul tuo

Ci sono paesi, anche tra quelli grandi, che non fanno sforzi sufficienti. Se un paese fa uno sforzo straordinario, serve un'interpretazione conforme allo sforzo straordinario sostenuto. L'applicazione flessibile non si farà per i paesi che non fanno questo sforzo o che non possono provare di averlo fatto. Quindi chi vuole richiedere questa flessibilità dovrà provare di disporre del necessario senso di responsabilità. Chi vuole un'interpretazione più flessibile del pacto deve mostrare d'abord qu'il dispose du necessario senso di responsabilità. E devo dire che Juncker anche, c'era un passaggio in questo intervento che abbiamo fatto ascoltare, ha anche ricordato che non tutti i paesi grandi hanno fatto sforzi sufficienti. Vedremo come si chiuderà la partita. Ancora due notizie rapidissime per quello che riguarda invece l'Italia e il mondo bancario. La Banca d'Italia oggi ha fornito un chiarimento, chiamiamolo così, sulla vicenda Popolare di Vicenza, dove ha ricordato che la Popolare di Vicenza è stata sottoposta dalla Banca d'Italia a un'intensa attività di vigilanza anche mediante numerose ispezioni, 7 nell'ultimo decennio, che hanno riguardato vari aspetti, tra cui area finanza, area credito, trasparenza e antiriciclaggio. Tutto vero, però è anche vero, lo dico con massimo rispetto alla Banca d'Italia, che le magagne della Popolare di Vicenza sono esplose quando sono arrivati gli ispettori della Banca Centrale Europea. Okay, per questo che poi era nata anche la polemica su dove fosse la Banca d'Italia. Andiamo avanti, per quello che riguarda invece il contratto del pubblico impiego, pronti alla mobilitazione i sindacati che chiedono un contratto vero per i lavoratori e per cambiare i servizi ai cittadini. Lanciano CGIL, CISL, UIL la campagna per il rinnovo dei contratti pubblico impiego, danno via la mobilitazione forte e capillare. Un rinnovo dignitoso dopo 6 anni di paralisi totale, 150 euro di aumento medio con produttività e riconoscimento professionale, questo è il minimo che si attende il sindacato. Sì, per carità, fa parte della trattativa, è vero che il pubblico impiego ha visto gli stipendi bloccati da 6 anni, è verissimo. È anche vero, lo dico per dovere di cronaca, che nel pubblico impiego non si è scaricata praticamente la crisi che invece ha visto raddoppiare la disoccupazione nel settore privato. Nel senso che la stragrande maggioranza della crisi degli ultimi 7-8 anni si è scaricata sul settore privato, nel pubblico impiego è stato bloccato il turnover, quindi il ricambio, e bloccati gli stipendi, insomma, ma è meglio avere lo stipendio bloccato che perderlo definitivamente. E poi, lo dico anche questo senza polemica, sarebbe bello che ogni tanto i sindacati del pubblico impiego, nel ricordare il rinnovo contrattuale, dicessero in maniera molto netta e non solo quando arrivano gli scandali tipo Sanremo, che sono a favore anche di una revisione dei meccanismi per premiare il pubblico impiego, il merito a partire dai dirigenti, il licenziamento dei dirigenti. Insomma, questo vorremmo sentir dire, non solo il pubblico impiego vittima. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ci dobbiamo occupare di carne, ripeto, non perché improvvisamente siamo diventati un programma di salute, ma perché l'allarme lanciato dall'International Agency for Research on Cancer dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui le carni lavorate come wurster, hot dog ed insaccati, quindi salumi e prosciutti, sono cancerogene e vanno inserite nel gruppo 1 delle sostanze che causano il cancro a pericolosità più alta, come il fumo, l'arsenico e l'amianto. Meno a rischio le carni rosse non lavorate, quindi quelle, insomma, fresche, dove però il rischio è di essere probabilmente cancerogene. Festeggeranno i vegetariani e i vegani, ma da questo punto di vista la nostra preoccupazione è su un settore produttivo. Adesso paragonare la fetta di prosciutto al fumo, all'arsenico e all'amianto mi sembra eccessivo. Infatti, se vai a vedere i dati, insomma, c'è una sproporzione tra le 20 volte più alte, il 20 volte più alto il rischio tumore se fumi e il 18% in più del tumore al colon retto se mangi prosciutto crudo, salame o hot dog. Dopodiché 50 grammi al giorno significano a spanne circa 2 hot dog al giorno. Io sfido chiunque a mangiare tutti i giorni un tale livello di... Poi ci sarà chi lo fa, ma sbaglia dieta oltre che elemento cancerogeno. Comunque, parliamo di un settore che complessivamente vale 32 miliardi nel solo settore dell'export dei prodotti che in gergo si chiamano da salumeria italiana. Solo nei primi sei mesi dell'anno ne abbiamo esportati per 614 milioni, dovremmo arrivare a fine anno con un export solo per i prodotti, diciamo, degli insaccati da salumeria di 1 miliardo e 200 milioni di euro. C'è un ascoltatore che subito scrive: schifoso, stai zitto, devo ancora iniziare il tema, abbiate pazienza. Allora, visto che me lo dice, non, figuratevi se faccio polemica con i vegani, con i vegetariani, sono fatti loro, ci mancherebbe. Non mi piacciono mai gli approcci ideologici in cui è tutto male. E poi ricordo, non dimenticherò mai però, una scritta su un muro di Milano, se non ricordo male, che era chiaramente ironica, quindi la riporto come tale. Sopprimi un vegano, salvi un albero. No, nel senso che con questa logica anche gli alberi hanno la loro dignità, anche le piante hanno la loro dignità. Va bene, ma non voglio entrare su temi che affrontano altri programmi. Vorrei capire quanto hanno paura dell'effetto di una cattiva anche interpretazione. Cioè, voglio dire, nessuno mangiare 50 grammi di insaccati al giorno è sbagliato e basta, tutti i giorni, ma ci arriva anche un bambino, mezzo etto di crudo o di cotto tutti i giorni, insomma, lo farà qualcuno, ma sbaglia. Io vorrei capire se temete che questo, in un anno in cui l'export anche agroalimentare italiano dovrebbe segnare un nuovo record, possa in qualche modo danneggiarvi, oppure l'allarme è così generalizzato che colpirà anche i Würstel e i salumi tedeschi, ma non solo. Grazie a François Tomei, direttore di Assocarni, che riunisce tutta la produzione italiana dell'industria, del commercio di carni e bestiame, aderente a Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei, grazie per l'invito. Beh, si figuri, era d'obbligo visto quello che vi sta travolgendo. Allora, siete preoccupati, al di là dell'elemento scientifico che nessuno sta contestando, ci mancherebbe, con le debite proporzioni, siete preoccupati che questo poi scateni, diciamo, un'ondata più emotiva e meno razionale sui consumi? Ma guardi, è ovvio che in questi giorni siamo sotto i riflettori. Da ieri, diciamo. Esatto, diciamo anche da prima, perché è iniziato in maniera virale sul web già da venerdì sera, perché ci sono state delle anticipazioni sui siti anglosassoni, ma quello che più conta è già registrare dopo qualche giorno la ragionevolezza sui social network da parte dei consumatori italiani, i quali immediatamente hanno preso coscienza da soli della enormità di questo studio, se rapportata all'alimentazione italiana della dieta mediterranea. Ma quanto mangiamo noi di insaccati? Esatto, perché la carne cruda o la carne, esatto, insomma, cotta, ma insomma quella comprata da macellaio, l'OMS dice non la mettono nella categoria 1 tra le probabili cancerogene. Vabbè, quindi lasciamo stare quella. Andiamo sugli insaccati, le carni lavorate. Andiamo sugli insaccati, molto bene. Allora, guardi, le quantità sono esattamente addirittura meno della metà. Cioè, noi consumiamo meno della metà delle quantità di cui parla lo IARC, l'OMS. Ora, questo già è un punto fondamentale. Quindi, in Italia il consumo di carni fresche e di insaccati è allineato con le indicazioni dei nutrizionisti sulla dieta mediterranea italiani, quindi noi non abbiamo quegli eccessi registrati nello studio che lei ha ben descritto. Ma c'è poi un altro aspetto, che è un aspetto qualitativo, che poi ovviamente si lega ad aspetti anche di salute, perché noi quando ascoltiamo un report, che tra l'altro nulla innova nella scienza, perché questo report dello IARC di fatto è una raccolta sistematica della letteratura scientifica degli ultimi 20 anni. Quindi ecco, questo già è un altro punto da sottolineare. Ma lei quanta carne, quanti insaccati mangia al giorno lei? Io? Ma io personalmente... È obbligato dal contratto o può scegliere? Chiedo. No, io sono obbligato, no, per carità. No, io ne mangio perché in realtà mangio e scelgo degli insaccati di qualità. Allora, è ovvio che nel momento in cui noi come italiani veniamo accomunati a tutta una serie di carni ormonate, sì, ma infatti quello che non capisco è questo, guardi, di pessima qualità. Esatto, cioè, allora adesso io non voglio fare il nazionalista per forza, ci sono anche salumi di cattiva qualità in Italia, però ma se certo. prendiamo le punte, prosciutto San Daniele, Parma, Toscano, esatto. e quant'altro. Se lì c'è solo sale, tra l'altro. Lì c'è solo sale, infatti. Se prendiamo altri allora, bisogna anche ricordare che i dietologi, per esempio, consigliano la bresaola e il crudo come elemento dietetico per il basso apporto calorico. Certo. Allora uno dice, che devo fare nella vita? La bresaola. Allora io dico, bisogna anche guardare, ma io non, lo dico con massimo rispetto, ci sono insaccati di bassissima qualità e anche prezzo. In Italia, ecco, però, un altro dato onestamente, guardando le importazioni, fatti salvi alcuni paesi che arrivano dall'estero, adesso non vorrei confondere con massimo rispetto i nostri San Daniele, Parma, Toscani e quant'altro con certi Wuster o certe pseudo mortadelle che vediamo girare dall'estero, perché insomma, basta guardare i conservanti presenti, prendere l'etichetta, guardi i conservanti, i coloranti e lo capisci subito qual è. La differenza esatto. come elemento allora, cancerogeno, prego. Questo che lei dice, mi fa molto piacere che la vedo molto, lei diceva di non essere sul pezzo nel settore agroalimentare, invece la vedo preparatissimo. No, allora, io ho detto di essere sul pezzo sul settore sanità, sul settore agroalimentare economico, ecco. Sì, se no... Sì, ecco, però quello che conta oggi è che il consumatore, nel momento in cui ha preso consapevolezza di questi dati, deve rendersi conto che la ricerca del basso costo, del sottoprezzo, non è mai premiante per la sua salute, nel senso che il basso prezzo spesso nasconde un prodotto di cattiva qualità e se non nasconde un prodotto di bassa qualità, spesso è comunque sulle spalle del produttore. Allora, quando leggiamo, ecco, questo è molto importante. Sì, adesso, perché... però adesso non è che possiamo tutti mangiare il San Daniele, nel senso con quella crisi che c'è, però attenzione perché vedo molti messaggi, alcuni hanno ragione. Qui l'OMS, a mio avviso, fa un gran casino perché mette assieme produzioni industriali, massimo rispetto, però insomma, io vedo le etichette degli insaccati importati, fate un confronto tra conservanti, antiossidanti, coloranti e quant'altro. Cioè, un po' di nazionalismo non guasta ogni tanto. Giustamente mi scrivono alcuni ascoltatori, non si può paragonare il prosciutto crudo con un disciplinare ai Wuster, dove dentro c'è tutto, con indicazioni anche molto generiche. Adesso se la prenderanno con noi i produttori di Wuster, sto solo dicendo che dire in generale le carni lavorate mette dentro tante cose così diverse che obiettivamente... L'altra cosa, mi scrive un ascoltatore, io sto mangiando due panini col salame tutti i giorni da 23 anni, mi verrà il tumore? Non lo so, però vorrei capire come sta messo a peso, perché sono due panini col salame tutti i giorni, fermo restando che il salame sei fresco, è buonissimo. Ma sicuramente il segreto sta anche nel variare la propria... Sì, vabbè, adesso non diventiamo un programma di dieta. Ai vegani ci pensa Goldrake, ok, dopo il traffico, dopo il metodo, l'ultima cosa da chiederle, comunque ai vegani ci pensa Goldrake, non è male. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. minuti, guardi, alcuni ascoltatori dicono precisate che nel nostro prosciutto Parma, San Daniele, Bresaola, Valtellina non hanno conservanti, l'abbiamo detto molte volte che forse l'errore più grosso è di mettere assieme prodotti anche molto diversi tra loro. Non voglio fare battute su vegani, vegetariani, su quanto rischiano con mangiando verdura dove pure sono presenti pesticidi e quant'altro, però vorrei capire una cosa. Al di là delle dichiarazioni del ministro Lorenzin, che ha detto l'industria del carne sicuro occorre evitare allarmismi, possiamo sentire Lorenzin, che oggi era all'Expo, grazie. Noi abbiamo un sistema industriale tra i più avanzati del mondo, un sistema di componenti che inseriamo all'interno dei cibi è molto controllato. Siamo tra quelli che hanno un regime più ristretto, penso al sale ed altre misure. E noi cosa possiamo proporre? Come Ministero della Salute, quello che noi diciamo è che la dieta mediterranea è la dieta che ci fa stare tutti bene ed è considerata un patrimonio dell'umanità. La dieta mediterranea comprende un corretto uso dei carboidrati, e quindi i legumi, la frutta e la verdura fresca, le carni fresche e il pesce in grande quantità. Tutto mangiato e consumato con equilibrio senza esagerare, e questo è è il buon senso. Dopodiché sull'utilizzo dei vari tipi di cibo c'è un grosso dibattito a livello internazionale, i nostri uffici lo stanno seguendo e anche il mondo della ricerca italiana è attiva, però credo che i titoli che sono stati dati sono stati eccessivamente allarmistici. Non dobbiamo creare allarmismo tra i nostri cittadini, dobbiamo invece proporre una educazione all'alimentazione che tra l'altro è dentro la nostra cultura. Allora, mi dica una cosa, state già pensando a una campagna che chiarisca, perché non è che bisogna contestare niente, Tomei, è giusto, il prezzo e la qualità si paga, e in un periodo di crisi non possiamo neanche dire che tutti si possono mettere a mangiare prosciutto crudo San Daniele o Parma, sembra Maria Antonietta con le brioche, però anche distinguere per dare a Cesare quel che è di Cesare, distinguere certo, tra produzione e produzioni, prego. Sì, no, ma tra l'altro adesso mi permetta di dire, però comunque gli italiani nel corso degli ultimi anni hanno ridotto effettivamente molto il denaro nella loro disponibilità destinato all'alimentazione. Quindi quello che voglio dire è che in ogni caso questo aspetto deve far riflettere, lo dico un'altra volta, sulla bontà dei nostri prodotti, della nostra tradizione, e quindi favorire sicuramente l'italianità dei nostri prodotti. Farete una campagna di comunicazione e informazione, sì o no? Ma la faremo senz'altro, ma proprio per far sapere ai cittadini che i nostri prodotti non sono quelli che sono descritti da questo studio, che sono completamente diversi. Se lei vede questi bacon che sono bruciati su queste piastre annerite negli Stati Uniti o nel Regno Unito, che iniziano la giornata con un prodotto che oltre ad essere affumicato e pieno di conservanti è pure fritto, è ovvio che non può essere paragonato a una fettina fatta in padella oppure a un panino con la mortadella. Ecco, quello che voglio dire è che siamo veramente in un altro campo da gioco, cioè un altro sport, un altro campo. A me interessa non farsi male venendo accomunati anche a produzioni alimentari di più bassa qualità come ci sono all'estero. Non ho nessun problema a essere nazionalista su questo, ripeto, sono 1,2 miliardi di quello che esportiamo, 32 miliardi, un sesto dell'intero agroalimentare vale il settore del carne insaccate. I dati sull'export verso l'Unione Europea nei primi sei mesi più 8%, in Spagna più 141%, in Francia più 10%, in Gran Bretagna più 2%, in Stati Uniti più 21% e più 26% in valore, Canada più 46% in valore. Per cui attenzione a non farsi male da soli. Grazie intanto al rappresentante di tutta l'industria nazionale commercio cani e bestiame, aderente a Confindustria, quindi a Socani, direttore François Tomei. Presidente delle Poste Italiane Luisa Todini, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Lei mangia carne? Allora, io mangio soprattutto carne bianca quando mangio la carne, però in effetti prevedo il pesce, legumi, frutta e verdura, ed è una lotta continua con una figlia preadolescente, però ogni tanto un po' di carne buona. Io poi sono nata in Umbria, in campagna, in effetti un po' di carne la buona. La patria della norcineria italiana. Esatto, l'importante è cucinarla bene, avere... giusto per essere chiaro, non l'ho invitata per questo, dovremmo parlare del debutto delle Poste Italiane, dopo, però mi incuriosisco. Lucia, dopo che ci occupiamo anche il problema è che il danno economico di questa vicenda rischia poi di pagarlo l'industria di qualità italiana. Invece vorrei proprio distinguere tra, in modo che anche all'estero si capisca che cosa è qualità e cosa è meno qualità. Comunque, dopo il traffico, non tanto il debutto, darò anche il valore di borsa, ma insomma, che cosa porteranno questi nuovi, i soldi serviranno allo Stato per abbattere il debito, ma questa e privato che entra nelle Poste se, darà un'ulteriore spinta alla produttività e anche ai piani futuri delle Poste italiane. Dopo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, iniziamo dal titolo Poste Italiane, che oggi, in una giornata in cui il mercato ha chiuso con un calo dell'1,15%, il titolo ha chiuso sotto il livello di quotazione. Sto pigliando adesso il titolo vero e proprio. L'ultimo prezzo per quello che riguarda Poste Italiane è a 6,70 euro contro i 6,75. Tutto sommato, vista la giornata, è andata anche bene perché il titolo cede meno del mercato, lo 0,70%, molto alte le contrattazioni e i volumi. Todini, adesso che avete fatto questo grande sbarco in borsa, lo sbarco più importante in Europa, la privatizzazione più importante a livello europeo per il 2015, che cosa cambia per voi? Ma guardi, per noi non cambia, nel senso che è confermato quello che abbiamo raccontato in giro del mondo, in particolare l'amministratore delegato e la sua squadra, che hanno raccontato agli investitori che hanno comprato Poste ed hanno comprato Italia, hanno comprato la storia di questa azienda. Io vorrei ricordarlo, questa azienda ha 153 anni di storia, noi siamo nati quasi con l'Unità d'Italia. Tutta questa storia oggi è valorizzata da un mercato che compra, ma non è che compra per portar via, compra per rimanere all'interno di un'azienda domestica che ad oggi ha, svolge una grande attività, è la più grande azienda in termini di forza lavoro all'interno dei confini nazionali, ma poi si potrà anche preparare a far altro naturalmente. Quindi è un grande boost, una grande spinta a quello che è oggi la realtà dell'Italia e anche una grande comprensione di quelle che sono le dinamiche di Poste, che è una grande azienda di servizi finanziari, assicurativi e ovviamente di logistica e di consegna della posta. Allora, le Poste Italiane hanno chiuso l'anno scorso in utile per 226 milioni di euro, cito memoria ma dovrebbe essere corretto il dato. Il fatto che, che più del 30%, anche se il 61% rimane stabilmente in mano al Tesoro, che più di un terzo sia collocato in borsa e quindi sia patrimonio degli investitori, anche dei risparmiatori piccoli, non solo di quelli istituzionali, vi farà non è che vi farà lavorare meglio, ma cambierà un po' anche l'identità interna, cioè l'essere più esposti, più visibili rispetto al mercato? Beh, guarda, il mercato è una grande leva per consolidare le cose buone e per migliorare quelle che sono migliorabili, no? Perché in qualche modo non abbiamo più un'indicazionista che peraltro era molto demanding, insieme al mercato si arriva ad essere ancora più demanding, ma per un futuro migliore. Noi abbiamo il mercato che oggi ha acquisito quasi il 40% di Poste, e lei giustamente ha ricordato anche i piccoli investitori, mi faccio ricordare anche i 26.000 dipendenti sì, che oggi sono azionisti di Poste, ed è un numero straordinario, no, per un'azienda come questa. Attraverso il mercato, attraverso gli azionisti, saremo ancora più portati a realizzare quello che è il piano industriale, su cui peraltro gli azionisti hanno creduto in Poste, sulla semestrale, come lei sa, perché naturalmente i numeri sono della semestrale, ma anche con un piano industriale di ampio respiro, che è, vorrei ricordarlo, non è solo fatto di numeri e di quanto arriveremo a produrre di più e a far meglio, ma anche di 8.000 assunzioni nel quinquennio, 3 milioni di ore di formazione interne per riqualificare le persone che abbiamo al nostro interno, una corporate university che è stata creata all'interno della nostra azienda proprio per formare al meglio chi oggi abbiamo e per attrarre grandi talenti. Noi abbiamo cominciato ormai da qualche anno ad attrarre talenti scolarizzati in un'azienda che è la più grande infrastruttura hardware, perché abbiamo oltre 13.000 uffici postali, ma anche software, perché siamo un'azienda di grande tecnologia, service provider per la digitalizzazione. Quindi con un futuro e un presente, peraltro, un presente che racconta un futuro già esistente. Allora no, è importante che 26.000 siano gli azionisti dipendenti, lo dico perché tutti gli azionisti pongono un controllo, però se tu sei azionista e anche dipendente, quindi sei azionista del gruppo in cui lavori, il controllo è ancora più alto, e quindi non dico che sia una public company, ma insomma, ma quasi. Grazie a Luisa Todini, presidente delle Poste Italiane. Domani ricordo che Francesco Caio, l'amministratore delegato, sarà ospite di Giovanni Minoli per il faccia a faccia di Mix24 domani mattina dalle 9 in poi. Adesso c'è il GR24, poi la borsa, poi il rapporto Svimez sul sud, quanto mai importante, e il risparmio degli italiani. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anchenoidisabili@radio24.it e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti, non solo poste, nel senso che la borsa, al di là delle Poste Italiane, che alcuni mi dicono brutto debutto, boh, insomma, meno 1,15 in mercato, meno 0,70% il titolo, forti volumi, non parlerei di brutto debutto. Comunque, al di là delle Poste Italiane, Enel Green Power più 3,40, Moncler più 1,80, Yux Net-a-Porter più 1,70, 2A più 1%, Pop Milano più 0,50, Campari più 0,40. Male invece oggi altri titoli legati al lusso. Beh, qui ci sono i conti soprattutto a penalizzare Luxottica, meno 4,20%. Perché? Non perché i conti siano andati male, quelli diffusi ieri. Il terzo trimestre dell'anno ha visto Luxottica registrare un utile netto di 209 milioni con una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 2014. Però le attese erano per utili ancora più alti, e soprattutto è stata, diciamo, certificata il rallentamento dell'Asia. Praticamente i ricavi sono a più 1% a cambi costanti, più 3% a cambi correnti. Comunque c'è stata una frenata lì sull'andamento di Luxottica in Asia. Buzioni c'è meno 3,40 come Saipem. Il 3,20 lo perde Steam Microelectronics, il 2,70 il calo di CNH, ma anche di Tenaris e di Eni, il 2,30 quello di Telecom Italia, l'1,80 quello di Enel, Mediaset ed Exor, meno 1,5 Azimuth. Dottor Vincenzo Longo, Market Strategist di IG Market Italia, ogni tanto invitiamo gli operatori di borsa per commentare la giornata, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, mi immagino che siate tutti in attesa della Federal Reserve di domani, quindi le indicazioni che darà sui tassi, anche perché il prossimo appuntamento, scadenza ultima, è metà dicembre per rialzarli, però oggi il lusso in ordine è sparso, mi sembra. Sì, diciamo che il lusso ha fatto male su alcuni titoli, soprattutto, come diceva lei, Luxottica, penalizzata dalle prospettive che ha delineato la D, che non sono poi così incoraggianti. Il titolo era poi vicino a dei massimi abbastanza importanti, quindi quelle di oggi possono essere viste un po' come anche delle prese di profitto, a nostro avviso il classico sell news che si verifica dopo un grande evento, quindi non sono poi così preoccupanti. Altri titoli invece hanno perso un po' più di terreno, qualcuno ha invece recuperato, come diceva lei. Però il tema del più grande in questo momento rimane l'appuntamento della Fed di domani sera. In questo momento le aspettative del mercato sono posizionate per un rialzo dei tassi solo a marzo del 2016, però ogni parola o dettaglio che lasciasse percepire che la Fed ancora vede la possibilità di ritoccare i tassi già a dicembre potrebbe innervosire gli operatori del mercato, e quindi magari con ripercussioni poi giovedì mattina sulle piazze finanziarie europee. Sui singoli titoli invece, Enel Green Power, qui scommettete che verrà integrata in Enel? Beh, è un'ipotesi che oggi il mercato ha cavalcato, con il titolo che ha dato seguito ad una buona prova di rialzo, è nel sottopressione, quindi sembra guadagnare forza questa considerazione, e ci può stare alla fine, tanto il titolo, in qualche modo diciamo il collegamento esisteva già tra Enel e Enel Green Power, quindi può realizzarsi questa operazione. È un po' strano che si vada verso un'operazione di consolidamento quando al giorno d'oggi, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche con Fiat, Chrysler e Ferrari, si tende a scorporare le varie business unit delle aziende per renderle più redditizie e a valorizzarle ancora di più. Quindi diciamo è un'operazione che va un po' in controtendenza a quelle che stiamo vedendo negli ultimi mesi, però il mercato oggi sembra averci creduto un pochino. Ancora, per quello che riguarda i titoli oltre a Luxotti che dicevamo, Eni, io vorrei un commento anche su Telecom Italia. È vero che veniva da sedute in rialzo, oggi perde il 2,30%. Sì, il titolo oggi è finito un pochino sotto pressione, sono arrivate un po' le smentite sulla notizia su cui Telecom Italia aveva costruito questi forti rialzi, ovvero la possibilità di una grande fusione in Sud America tra Team Brasile e OI. Queste ci sono state delle smentite da parte del management, e questo ha portato il titolo un pochino a sgonfiarsi. Oggi ha fatto peggio del mercato, quindi prese di profitto un po' più accentuate. Questa è una tendenza che stiamo vedendo in questi giorni, ovvero i titoli che sono saliti di più tendono, quando il mercato va a correggere, a fare peggio, proprio perché c'è una pioggia di vendite e di prese di profitto più marcata. Quindi anche quello di Telecom Italia potrebbe essere inquadrato tutto sommato come una fase accelerata di prese di profitto. Allora, migliori e peggiori in assoluto oggi per quello che riguarda Milano, dunque, eccoli qua: Sintesi più 42%, Kinexia più 8%, Fiera Milano più 4,80%, Danone più 4,80% anch'esso. Peggior titolo, CT Biofarma meno 14,60%, Tribù Media meno 10,90%, Investimenti e Sviluppo meno 6,61%. Nel ringraziare il dottor Vincenzo Longo, restiamo in tema di risparmio, ma per parlare del rapporto annuale che viene stilato alla vigilia della giornata mondiale del risparmio, che è domani, 91esima giornata mondiale del risparmio, vi sarà l'intervento del presidente dell'ACRI Guzzetti assieme al ministro dell'economia Padoan, al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Dicevo, come sempre alla vigilia viene condotta una ricerca assieme a Ipsos sugli italiani e il risparmio, e devo dire che oggi qualche novità è arrivata, nel senso che, fermo restando che torna la fiducia degli italiani, ma resta grave per 19 su 20, nel senso che solo uno su due migliora il suo tenore di vita quest'anno, secondo l'indagine appunto Ipsos, torna anche la voglia di mattone per il 29% degli italiani, l'investimento ideale, ma attenzione, quasi 2 su 3 preferiscono la liquidità. È sempre il rapporto Ipsos a dire anche che la congiuntura migliora, ripartono i consumi, tirano soprattutto l'auto, l'elettronica, la telefonia, gli alimentari appunto e l'automobile. Attenzione però, allo stesso tempo ancora oggi una famiglia su quattro, quindi il 23%, un po' in calo sul 2014, non riuscirebbe a far fronte a una spesa improvvisa di 1.000 euro con risorse proprie, quindi la situazione è ancora delicatissima e molto critica per almeno un quarto delle famiglie italiane. Cala l'ansia da risparmio, per la prima volta da 4 anni certifica l'Ipsos. Gli italiani che non vivono tranquilli se non risparmiano sono stati superati da coloro che lo fanno solo se ciò non comporta troppe rinunce. 3 italiani su 4 insoddisfatti dall'euro, ma la crisi italiana, le difficoltà italiane non sono attribuibili all'Europa. Solo il 4% degli cittadini italiani imputa ogni responsabilità all'Europa e ben il 48% ritiene che la situazione attuale sia causata dal malgoverno del paese negli ultimi anni, dalle mancate riforme e non dall'euro. Su questo il presidente dell'ACRI Guzzetti, commentando i dati, dice: muta la situazione, anche i giovani sono un po' più ottimisti, ma attenzione, l'80% degli italiani reputa ancora grave la crisi. Ci sono più persone, più famiglie un po' meno pessimiste sul futuro, qualcuno che riesce a risparmiare di più, un ampio consenso sul fatto che alcuni degli elementi negativi degli scorsi anni dall'intervista emergono, alcuni meno che sono diventati più. È chiaro che questi dati, qualcuno che risparmia di più, qualcuno che ha più fiducia, qualcuno che riesce naturalmente ad avere una prospettiva più serena, ci sono le domande nell'indagine e ci sono le risposte. La gente avverte, c'è ancora una crisi molto forte, una famiglia su 4 è in difficoltà. L'indagine evidenzia che gli intervistati dicono anche che è una crisi pesante che durerà. E sottolinea l'inversione di rotta anche l'amministratore delegato di Ipsos, Nando Pagnoncelli, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Le difficoltà permangono, la crisi ovviamente è vissuta come una crisi grave, anche se si riduce la quota di coloro che esprimono, come dire, un giudizio così negativo rispetto alla situazione attuale. È come se fosse un momento un po' liberatorio, il 15° anno che facciamo questa ricerca e vediamo dei segnali interessanti sia sotto profilo, come dire, delle prospettive individuali che rispetto alle prospettive del paese. Gli indicatori più interessanti sono legati al fatto che il 55% delle persone dichiarano di essere soddisfatti della propria situazione economica. Questo non ci deve portare a sottacere o a sottovalutare invece l'area delle famiglie colpite pesantemente dalla crisi, sono circa un quarto delle famiglie, però nel complesso osserviamo un atteggiamento di maggiore cauto ottimismo rispetto alle prospettive, ripeto, sia personali che del paese. Aumenta la percentuale di coloro che sono riusciti a risparmiare negli ultimi 12 mesi per il 3° anno consecutivo. Questo sta a significare che già negli anni scorsi, pur in situazione più critica di contrazione dei consumi, comunque gli italiani per cautela riuscivano a mettere da parte qualche cosa. 37% sono riusciti a risparmiare. L'altro dato molto importante è che le famiglie in saldo negativo, cioè coloro che hanno dovuto fare ricorso al decumulo dei risparmi, cioè hanno intaccato i risparmi o hanno chiesto soldi a prestito, sono scesi al 22%. Era 10 anni che non succedeva di avere un valore così basso. Il popolo dei cicale si mantiene attorno all'8%, cioè coloro che spendono senza fare troppi pensieri, senza troppe inquietudini. Diciamo che nel complesso osserviamo una ripresa della volontà di consumare, come se alcuni acquisti, in particolare mi riferisco a beni semidurevoli, auto, moto, elettrodomestici, elettronica di consumo, fossero stati rinviati in attesa di tempi migliori. Oggi, di fronte a una prospettiva di crescita, sia pure insomma modesta, ma che comunque un'inversione in tendenza, mi riferisco ovviamente al PIL nazionale, ecco, è come se le persone dicessero forse è il momento per riprendere magari a fare qualche spesa che avevamo congelato negli anni scorsi. E qualche timida speranza arriva anche per il nostro Mezzogiorno nel rapporto, come ricordavo all'inizio del programma Svimez sul Mezzogiorno. Ne parliamo dopo il traffico. Anche qui l'importante, avete visto quanti distinguo sto facendo, è non dare l'impressione che tutto vada bene o tutto sia migliorato in maniera miracolosa e tutto il mondo sia rosa. Un conto è dire che ci sono dei segnali di miglioramento in un contesto molto deteriorato, altra cosa è dire che tutto va bene. Comunque, dopo il traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Mezzogiorno, perché è un altro dei temi che vengono considerati come abbandonati. Se in legge di stabilità non ci sono risorse, salvo alcune importanti risorse per alcuni progetti specifici sul Mezzogiorno, appostate con questo criterio, ci sono meccanismi che permettono di sbloccare, soprattutto da parte delle regioni, investimenti pubblici già finanziati fino ad un ammontare di 11 miliardi. Di cui 7 si può prevedere andranno a Mezzogiorno. È giusto mettere al centro del dibattito il rischio buono, prendersi dei rischi da parte delle imprese è importante in questa fase, perché c'è bisogno di uno sforzo, virgolette, strutturale di riallocazione, di reinvestimento. La crescita, soprattutto in queste condizioni, è una cosa molto complicata. Più va avanti, meno ci si capisce, ma più si fanno degli sforzi. La conclusione è quella che ci vuole una strategia a più gambe. Oh, così il ministro Padoan oggi, cui ha chiesto anche, ricordato come nella legge di stabilità vi sia una nuova misura, un fondo per facilitare l'operazione nell'ambito del piano Juncker. Parliamo di Sud perché lo Svimez fotografo un Sud che dopo 7 anni di crolli nel PIL ben più forte della media nazionale vede un più 0,1% come andamento dell'economia quest'anno contro un più 1% del centro-nord, grazie soprattutto all'andamento più positivo dei consumi. E tra l'altro gli occupati, ricorda lo Svimez, stanno crescendo nel secondo trimestre più al Sud che al Nord, più 2,1% contro più 0,4% del centro-nord, ma siamo ancora di fronte a una situazione in cui il 62% dei residenti nel nostro sud guadagna al massimo il 40% del reddito medio del paese. Alessandro Laterza, che è tra l'altro responsabile proprio per Confindustria, per quello che riguarda anche le politiche per il Mezzogiorno, è vicepresidente di Confindustria. Buonasera. Buonasera. Allora, è molto difficile commentare un dato positivo senza diventare ottimisti, non so se mi sto facendo capire, senza dire va bene, tutto è passato, va tutto bene. Lo 0,1 dopo 7 anni di crollo è veramente poco, ma c'è qualcosa anche dal vostro osservatorio che si sta muovendo? Lo Svimez ricorda soprattutto l'andamento dei consumi. Ma per la verità, nel check-up semestrale che Confindustria fa sul Mezzogiorno, già a luglio avevamo osservato che c'era qualche segnale sensibile di miglioramento, che poi è stato confermato da questo andamento dell'occupazione e complessivamente anche dall'andamento dell'export, nonostante i problemi dei petroliferi e dell'acciaio ILVA. Quindi questo segnale positivo, nel senso dell'arresto di una caduta, si registra. Dopodiché, se dal 31-12 al giugno vediamo 120.000 occupati in più, dobbiamo ovviamente sempre tenere a mente che se ne sono persi in 7 anni della crisi circa 600.000 e che il recupero da effettuare al sud in termini di PIL è colossale, perché il crollo è stato di dimensioni tali che adesso dobbiamo, come dire, afferrare in qualche modo la ripresa. È in questo senso che il Sud manca un po' della legge di stabilità, cioè proprio perché c'è un segnale positivo è il momento di affrontarlo e di cavalcarlo. Non, da questo punto di vista, il grande annuncio di una svolta per il Sud fatto il 1 di agosto dal governo non ha avuto esattamente un seguito. Ma voi cosa vi attendevate? Che almeno lì la riduzione dell'IRES partisse per il 2016? Noi avevamo chiesto, almeno per le aziende che investono al sud? Esattamente, noi avevamo chiesto più, se vogliamo più specificamente, un credito d'imposta per nuovi investimenti e ampliamenti nel sud. In realtà la domanda, come dire, al di là declinazione tecnica era quella di insistere sotto il profilo degli investimenti privati, anche per valorizzare la spinta positiva della decontribuzione sulla nuova occupazione e creare in qualche maniera un ponte, un cortocircuito virtuoso. Cioè, se ho ben capito, voi dite, da un lato il governo ha fatto la decontribuzione per i neoassunti a tempo determinato, se a questo uniamo un vantaggio per l'impresa nell'investire a sud perché perché ha dei crediti d'imposta, poi vediamo insomma, formula nell'investimento lì, uniamo la parte sul lavoratore, la parte sull'impresa e si poteva generare un elemento virtuoso. Ma avete rinunciato a ogni speranza che il governo magari adesso... No, noi rinunciamo a ogni speranza e continueremo a sottolineare questo punto con il governo, che in realtà ha risposto sotto questo fronte con la proposta del superammortamento, che è ovviamente il limite oggettivo di essere... una cosa è rivolta a aziende che in qualche maniera macinano già utili, che già esistono e operano, diciamo, certo. E se ne possono avvalere in misura significativa. Poi noi insisteremo e speriamo che quantomeno un segnale venga dato. Certo, allo Stato questo segnale non è riconoscibile e questo va rimarcato accanto a tanti aspetti positivi naturalmente della stabilità, ma non è che un pacchetto in cui si prende tutto non si prende niente. No, così come giustamente da fare anche una valutazione. No, così come il cervello non va all'ammasso, uno quando valuta la legge di stabilità vede alcune cose positive, gli ammortamenti, devo dire che tutti sono d'accordo che sia una buona norma, il 140% rispetto al 100 speso per un nuovo macchinario. Onestamente, scusatemi, manca una fiscalità di vantaggio, come si chiama nei paesi seri, per il nostro mezzogiorno. Guardate che non è l'Italia a inventarla, la usano tutti i paesi, anche i nostri concorrenti nell'area europea. Grazie anche al responsabile di Confindustria per il Mezzogiorno, il vicepresidente Alessandro Laterza. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.